Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. Andremo avanti fino alle ore 21:30. Ricordo che questa trasmissione è condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste, ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla d'apertura per questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda fino alle ore 21:30. Siamo in diretta radiofonica qui negli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Come sempre ricordiamo che il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Udine, ma andiamo già così, partiamo subito all'ascolto di questa band svedese. Loro sono i Wolfpack, l'album è All Day Hell, uscito nel 1999. Wolfpack, che l'anno successivo cambiarono nome in Wolf Brigade. We'll be right back. Bene, buonasera a tutti, su questi Proto Wolf Brigade vi do anch'io benvenuto e benvenute, benvenuti a chi ci ascolta sulla modulazione di frequenza in diretta, insomma per chi abita a Udine dintorni, nel Friuli eccetera, Radio Onde Furlane che ci ospita, un grazie agli ascoltadors, ascoltadoris. E a chi invece ci sta ascoltando in streaming sempre dal sito di Onde Furlane, e tutti quelli che ci ascoltano invece, diciamo, in un altro orario, utilizzando insomma gli altri canali Telegram eccetera. Sono già le 8:14 di questo giovedì 20 aprile. La notizia è di ieri, 19 aprile, che vogliamo partire con questa buona notizia, secondo me, e che comunque tutti voi già vi avrà raggiunto. Mercoledì 19 aprile Alfredo ha interrotto lo sciopero della fame. Io direi di non rompere gli indugi e vi vado a leggere questo comunicato di aggiornamento comparso oggi su un blog che si chiama La Nemesi. L'anarchico Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame intrapreso dal 20 ottobre. Mercoledì 19 aprile 2023 l'anarchico Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame iniziato 181 giorni prima, il 20 ottobre 22, all'interno del carcere di Bancali, in Sardegna. Il compagno, attualmente recluso nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo a Milano, ha portato avanti, per 6 mesi uno sciopero della fame a oltranza, contro il regime detentivo stabilito all'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, regime in cui era stato trasferito il 5 maggio 22, e contro l'ergastolo ostativo, che rischiava di essere la condanna definitiva per il compagno al termine del processo scripta manent. L'interruzione dello sciopero della fame avviene a seguito dell'udienza del 18 aprile a Roma presso la Corte Costituzionale, che ha riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti nei confronti della recidiva reiterata nel caso di tutte le condanne per reati la cui pena fissa sia l'ergastolo. È questo il caso di Alfredo, in quanto con la riqualificazione da parte della Corte di Cassazione al termine del processo scritta manent dell'accusa inerente al duplice attacco esplosivo contro la caserma allievi carabinieri di Fossano del 2 giugno 2006 da strage comune a strage politica, i compagni Alfredo Cospito e Anna Beniamino rischiavano una condanna rispettivamente all'ergastolo ostativo e a 27 anni di carcere, come richiesto dalla Procura di Torino. Quanto avvenuto in questi giorni non è certamente una vittoria dello Stato di diritto o un ritorno ai principi della Costituzione, bensì un risultato conseguito dallo sciopero della fame e dal movimento di solidarietà internazionale sviluppatosi nell'arco degli ultimi 11 mesi. Con la condanna all'ergastolo ostativo e l'imposizione del 41 bis, lo Stato intendeva seppellire in carcere a vita Alfredo Cospito. Oggi questo intento, sebbene il compagno resti detenuto in 41 bis, non è stato conseguito da parte dello Stato e dei suoi apparati repressivi. In questi mesi il compagno ha rischiato la vita e la sta continuando a rischiare anche oggi, in questa nuova e delicata fase di lento recupero della facoltà di alimentarsi. Il compagno ha già riscontrato dei danni neurologici presumibilmente permanenti, localizzati in particolare nel sistema nervoso periferico. Ha perso integralmente sensibilità a un piede, l'altro piede ha sensibilità ridotta e una mano ha iniziato a dare sintomi simili. La prosecuzione dello sciopero della fame, nella modalità con cui lo ha condotto per lunghi mesi, lo poneva oggettivamente, più che nel pericolo immediato di una morte repentina che sarebbe stata probabilmente evitata dal monitoraggio cui è sottoposto in ospedale, nel rischio di un decadimento progressivo e permanente del fisico, con conseguenze più o meno gravi consistenti in primo luogo nell'ulteriore menomazione del sistema nervoso. In questo sciopero della fame, Alfredo ha sempre ribadito di non aver lottato solo per sé, ma per tutti i detenuti in 41 bis e inoltre per sviluppare la solidarietà con gli anarchici, i comunisti e i rivoluzionari reclusi in tutto il mondo. E in questi sei mesi di sciopero la solidarietà con Alfredo si è espressa nelle carceri di mezzo mondo, in primo luogo da parte di compagni anarchici e rivoluzionari reclusi che in Italia, Francia, Cile, Grecia, Regno Unito, Spagna, Germania hanno solidarizzato e lottato, intraprendendo a loro volta lo sciopero della fame, realizzando iniziative e digiuni solidali, pubblicando dichiarazioni e analisi. Infine, una solidarietà che, in particolare in Italia, anche altri reclusi, non solo gli anarchici e rivoluzionari imprigionati, hanno espresso in molteplici forme. La svolta autoritaria, espressione del capitalismo nella sua configurazione neoliberista, attualmente in crisi, ha generato e continuerà a generare una forte repressione nei confronti degli anarchici, una repressione che, come abbiamo osservato negli ultimi anni, si è allargata alle componenti sociali sfruttate che più di tutti subiscono la crisi sociale e ecologica. Ma il monito che lo Stato italiano intendeva dare al movimento anarchico è stato rispedito al mittente, con determinazione e coerenza. In questi sei mesi di sciopero della fame è stato impedito l'isolamento di Alfredo e di tutti i compagni imprigionati. In questi lunghi mesi si è espresso un movimento di solidarietà rivoluzionaria internazionale che già prima del 20 ottobre, ne siamo certi, anche dopo questo 19 aprile, ha saputo e saprà riaffermare il senso e la prospettiva delle nostre idee e pratiche. Un movimento che, cresciuto in maniera consistente a partire dall'inizio dello sciopero della fame oltranza e rifiutando al contempo ogni ipotesi di compromesso, continuerà a sviluppare la coscienza della solidarietà. Infine si conclude così il comunicato: dimenticare i prigionieri della guerra sociale significa dimenticare la guerra stessa. Solidarietà rivoluzionaria con Alfredo Cospito e con tutti gli anarchici e rivoluzionari imprigionati. Bene, lasciamo in sottofondo, anche se è partito un altro brano, non era mia intenzione far partire, ma come ho detto, lasciamo in sottofondo perché già stavano andando prima in questa band, una band, sì, stava andando in sottofondo durante l'intervento, una band pugliese della zona di Foggia, loro sono i NIS, che sarebbe l'acronimo di Nevrosi Irreversibile del Sistema. E questo è un loro mini CD completamente autoprodotto, uscito già qualche anno fa, ma appunto lo lasciamo così sempre sottofondo, perché ora invece andiamo a presentare questa, diciamo, nuova uscita discografica. È stato fatto questo così grazie alla FOAD Records, hanno messo in piedi questo album più un libretto interno in cui riporta tutti i testi e tutte le uscite precedenti per questa band di Modena. Loro erano gli Stigmate, una band che si è formata nel 1980 ed è esistita fino al 1986, praticamente una discografia completa più un CD live all'interno, insomma un bel lavoro come anche già fatto in passato. E ci ascoltiamo questi Stigmate da questo, diciamo, album discografico autodiscografico completo che si intitola Corri e sopravvivi. Sì, anch'io saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardins Magnetics. Volevo dire due cose ancora su Alfredo, appunto su questa sua decisione di non morire e di smettere lo sciopero della fame. E, vabbè, chiaramente intanto noi auguriamo ogni bene al compagno, veramente vita, salute, forza e tutto. E, è importante in questo momento che fare in modo che tutto quello che è emerso grazie alla lotta radicale di Alfredo e anche grazie naturalmente alle mobilitazioni, insomma, che non l'hanno lasciato nell'isolamento, non l'hanno lasciato da solo, è importante, dicevo, fare in modo che tutto ciò, tutta questa lotta contro l'ergastolo, contro il 41 bis, contro l'ostatività, non ritorni nell'oblio. Ed è importante, come diceva in una intervista a Radio Onda Rossa l'avvocato Rossi Albertini, è importante capire e mettere in pratica il fatto che le prospettive di questa lotta così importante sono nelle mani di tutti noi che stiamo fuori. Cioè siamo noi che stiamo fuori, che dobbiamo cogliere il testimone dalle mani di Alfredo cioè abbiamo noi la responsabilità di questa cosa, e non è una cosa che non bisogna, per come la vedo io, dimenticare. E Rossi Albertini poi, cioè, con la sua solita, insomma, chiarezza e professionalità, ma anche umanità, e ha, secondo me, messo bene a fuoco il discorso che, diciamo, che soprattutto negli ultimi tempi le notizie che venivano date su Alfredo così ricadevano in un discorso di biopolitica, nel senso che c'era questo, se vogliamo, anche accanimento sul discorso del corpo di Alfredo, no? Di questo decadimento della sua salute causato da un digiuno così prolungato. E però con questa decisione sua di ieri, appunto, questa cosa finisce. Alfredo si può dire che ha fatto quello che poteva fare, ha fatto tutto quello che poteva fare, e ora ha deciso che non vuole morire, insomma, e quindi ha interrotto lo sciopero della fame. Adesso, appunto, ci si augura che le cose vadano come devono andare rispetto alla ripresa dell'alimentazione, perché è uno dei momenti più critici dopo uno sciopero della fame così lungo, prolungato. Il momento del ricominciare ad alimentarsi è molto delicato. E dico ancora due cose rispetto, cioè, perché l'avvocato ha fatto un discorso anche, diciamo, giuridico, chiaramente, e a noi non interessa tanto il discorso giuridico, però relativamente al fatto che la lotta di Alfredo è una lotta, è sempre stata fin dall'inizio una lotta non solo per sé, ma una lotta per contro il carcere duro, l'ostatività, l'ergastolo per tutti. E Rossi Albertini, appunto, ha enfatizzato, ci ha spiegato bene in questa intervista che potete andare ad ascoltare su Radio Onda Rossa, ha spiegato bene intanto il discorso del ricorso alla CEDU contro la Corte di Cassazione, che è stato fatto nel febbraio 2023 da lui e da un'altra avvocata, e questo ricorso è stato ritenuto ricevibile. Allora, non per parlare di tecnicismi, però l'avvocato segnalava che nell'80% dei casi tutti i ricorsi vengono considerati irricevibili. Quindi il fatto che sia stato considerato ricevibile, si tratta di un ricorso, appunto, contro il 41 bis inflitto ad Alfredo, e è un passo importante, in quanto, diciamo, dà un colpo anche all'istituto del 41 bis, e anche se con tempi lunghi, perché i tempi di queste faccende qua sono allucinanti, cioè, diciamo, vanno contro la vita umana, si parla di 2-3 anni, però c'è questo colpo al discorso, all'istituto del 41 bis. E poi, relativamente invece al pronunciamento della Corte Costituzionale del 18 di martedì 18 aprile, anche questo è importante, diciamo, perché dà un altro colpo, ma questa volta all'ergastolo. E come è stato detto in precedenza, insomma, nel comunicato che è stato letto, c'è questa legge Cirielli del 2005, era una legge del governo Berlusconi, che praticamente impedisce che le attenuanti superino le aggravanti in caso di recidiva, e questa faccenda qua, insomma, praticamente colpiva tutti quelli che rischiano l'ergastolo. Però con questo pronunciamento della Corte Costituzionale, praticamente questa norma è stata considerata non valida, cioè anticostituzionale, quindi ha sollevato anche dubbi di costituzionalità in generale nei confronti di quei casi in cui la pena fissa si configura come ergastolo. Quindi, appunto, anche in questo caso qua la ricaduta, diciamo, è generale, importante. E anche se non ce ne frega niente delle leggi e degli apparati, da un punto di vista proprio etico-politico, questa questa, l'essere riusciti, diciamo, a sollevare queste cose qui anche con mezzi legali attraverso gli avvocati, è tutto merito della lotta fino all'ultimo respiro, appunto, di questo compagno. Bene, abbiamo ascoltato adesso in sottofondo, ma anche insomma ora, questa band che avevo già presentato precedentemente, gli Stigmate di Modena, band storica del punk hardcore dei primi anni 80 di Modena, e che adesso in queste settimane è uscita questa discografia completa dei loro 2-7 pollici, più un CD live, più anche un, mi sembra, altri brani di alcune tape dell'epoca. Mentre ora andiamo invece all'ascolto di questa band macedone, loro sono Is This Home Prepared, loro, come già detto, band macedone. Thank you. Sì, e proseguiamo con appunto le voci e i corpi degli esseri viventi, umani e non umani, imprigionati. E in questi giorni, insomma, ho ascoltato sempre su Radio Onda Rossa e una interessante intervista a una compagna antispecista che fa parte di un collettivo appunto antispecista, queer, transfemminista, che si chiama Scobi Collettiva Oltre i Binari di Rovereto. E questa compagna appunto ha parlato in maniera molto interessante della faccenda dell'orsa JJ4, che purtroppo è stata catturata. Quando ho sentito io l'intervista, ancora non era ancora uccel di bosco, diciamo, e ha appunto in questa intervista ha dato molte informazioni sulle politiche di ripopolamento della fauna selvatica al fine dello sfruttamento economico della montagna, politiche appunto che sono messe in pratica in Trentino, ma non solo, ma comunque in questo caso la faccenda appunto di questa brutta faccenda del ragazzo morto, insomma, aggredito dall'orsa, si è svolto appunto, sì, è successo in Trentino. E appunto, oltre a queste informazioni, ci sono state poi delle riflessioni generali sulla caccia ai soggetti selvatici rispetto alla società capitalistica. Quindi i soggetti selvatici rispetto a questa società non sono solo gli animali selvatici, ma sono anche le persone che migrano, cioè che si spostano nei vari territori e che non sono liberi di farlo, e poi siamo anche tutti noi, insomma, tutti noi che non siamo, diciamo, inglobati nel sistema. E queste riflessioni poi portano anche a delle similitudini che si notano nelle politiche di carcerazione e di repressione degli animali selvatici, che poi non sono molto dissimili da quelle che vengono messe in atto per gli esseri umani. Ma vale la pena di dire qualcosa, di dare un approfondimento rispetto appunto a questa presenza degli orsi in Trentino, ma non solo in Trentino, in generale in tutto l'arco alpino. Allora, intanto gli orsi ritornano sulle montagne trentine per volontà speculativa dell'uomo, con il progetto Life Ursus. Gli orsi in realtà c'erano prima di questo progetto, ma erano stati massacrati, quindi si erano estinti non perché l'aria non è buona o perché non trovavano cibo, ma perché li avevano ammazzati. Nel 99 appunto ci sono questi fondi dell'Unione Europea per il ripopolamento, e quindi prende il via il progetto Life Ursus per la tutela di questa specie dell'orso bruno del Brenta. E questo progetto viene promosso dal Parco Naturale Adamello Brenta in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e anche con l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Allora, questo progetto alla fine degli anni 90 appunto prevedeva il reinserimento di una decina di orsi adulti provenienti dalla Slovenia. Come ci ha detto la compagna, sono stati questi orsi impacchettati e portati dalla Slovenia, e vengono appunto reinseriti nel territorio del parco, con l'obiettivo di creare in 20-40 anni una popolazione di orsi. E loro insomma dicevano, si auspicavano una popolazione di un centinaio di orsi alla fine della sperimentazione del progetto. Tra l'altro, già dall'inizio al progetto collabora anche l'Associazione Cacciatori Trentini, guarda caso, che comunque c'è questa faccenda per cui i cacciatori fanno da monitoraggio rispetto alla presenza della fauna selvatica. Vabbè, e nel 2004 il progetto si intende concluso con successo, cioè con l'effettivo adattamento degli orsi, e vengono avvistati i primi cuccioli. Nel 2018 si arriva a 50 esemplari di orsi, però, ci dice la compagna, in questi 24 anni ben 37 orsi hanno fatto una brutta fine, sono stati abbattuti, sono scomparsi, non si sa che fine hanno fatto, sono morti durante la cattura, sono morti investiti, anche uccisi per errore dell'anestesia, perché appunto per applicare a loro il collare, il radiocollare che li localizza, alcuni orsi sono deceduti a causa dell'anestesia e poi sono stati uccisi dai bracconieri e imprigionati. E imprigionati c'è appunto questo castellare, questa struttura, questa galera, insomma lager per animali selvatici, che in realtà era nato come una specie di ospedale, cioè dove dovevano essere curati gli animali selvatici, in realtà si è trasformato appunto in una prigione dove gli animali selvatici che non che delinquono, cioè che fanno gli animali selvatici, diciamo, e mettono in atto comportamenti che disturbano l'umano, vengono rinchiusi. Allora, la questione è questa: che gli orsi vanno bene finché servono a pubblicizzare un territorio, a fare appunto marketing, ad attrarre turisti. Quando invece si comportano da orsi non va più bene e si parla di abbattimenti. E di abbattimenti, appunto, di ammazzarli. E questa compagna di Scobi Collettiva ha parlato anche della campagna Stop Castellare, che è appunto una campagna che vuole sabotare questo carcere per orsi e non solo per orsi, comunque in questo momento ci sono gli orsi. E tra l'altro questo è un carcere di massima sicurezza appunto per gli animali, e infatti gli orsi rinchiusi lì si massacrano con forme di autolesionismo, e alcuni per fortuna sono anche riusciti a fuggire. Praticamente, allora, che cosa, per ritornare a questo discorso del progetto di ripopolamento degli orsi, all'origine 10 orsi adulti, maschi e femmine, erano stati impacchettati dalla Slovenia e appunto portati lì. E non tutti si sono riprodotti, ma poi alcuni hanno cominciato a riprodursi. I problemi sono iniziati una decina di anni fa, cioè sono iniziati gli incontri scontri tra umani e orsi. E questo perché, ci spiegava appunto la compagna, non è stato fatto nessun tipo di diciamo monitoraggio della situazione, e nemmeno nessun tipo di educazione anche rispetto alle persone di come comportarsi, diciamo, quando vanno a passeggiare nei boschi, perché lei giustamente dice quando hanno ripopolato con questi orsi portati dalla Slovenia, hanno impostato la questione come se gli orsi fossero dei peluche, degli animali, diciamo, domestici, semidomestici, dei coccoloni. Invece gli orsi sono dei grandi carnivori, cioè, e tra l'altro non sono animali sociali, tendono a non voler stare abbastanza isolati, insomma, per fatti loro, anche rispetto agli altri loro simili, a girare molto, diciamo, sul territorio, e chiaramente con questo ripopolamento gli orsi hanno anche iniziato ad attentare, tra virgolette, al patrimonio economico attraverso l'aggressione agli animali allevati, e che appunto animali che sono stati tenuti dagli allevatori come se non esistessero grandi carnivori sul territorio, insomma. E qua è nato tutto uno scandalo, una colpevolizzazione, perché poi c'è questo atteggiamento di questa umanizzazione in senso deleterio degli animali selvatici, questo appunto mostrificazione, criminalizzazione degli animali, e questo scandalo di fronte alla predazione da parte loro degli animali allevati, come se questi animali allevati, tra l'altro, non fossero destinati comunque a essere messi a profitto e a finire al macello. E appunto dicevo che la compagna poi appunto sollevava anche molto questa questione della, dell'importanza di sapere come ci si deve comportare, no? Quando si va in un ambiente selvatico, ad esempio è importante segnalare la propria presenza quando si gira per i boschi, insomma, non mimetizzarsi, ma segnalare la propria presenza, e ad esempio se si è se si è accompagnati da un cane, lei diceva che ad esempio è pericoloso lasciare libero il cane, in quanto il cane tende a fiutare l'animale selvatico, in questo caso l'orso, poi è l'orso che fiuta il cane, quindi lo insegue, diciamo, solo che poi il cane torna dall'umano e l'orso pure, e quindi avvengono questi incontri non desiderati, perché non è che l'orso vorrebbe incontrare l'umano, se ne guarda bene, ma se poi dopo lo incontra si sente minacciato, e quindi poi, come nel caso di JJ4 e di questo povero ragazzo, insomma, che ha avuto questa disgrazia, è caduto in questa disgrazia, ma lei aveva i cuccioli e quindi ovviamente ha messo in atto un comportamento naturale per un animale, quello di protezione dei cuccioli. E vabbè, poi ci sono anche diverse storie, secondo me, interessanti su questi, su questa popolazione, su alcune di queste di questi orsi, insomma, che sono in questa zona del Trentino, vabbè, addirittura una zona molto limitata della provincia di Trento. E, sì, la compagna ci spiegava che non, in teoria loro potrebbero anche andare in altri territori, ma non riescono ad attraversare la Valle dell'Adige perché è troppo antropizzata e industrializzata, come fanno a, cioè non ce la fanno a passare praticamente, quindi sono molto concentrati in, sono parecchi esemplari concentrati in un territorio limitato, ma anche questo è responsabilità, cioè non è un capriccio degli animali selvatici, ma è la responsabilità di delle politiche umane che non hanno saputo creare dei corridoi, diciamo, di attraversamento. Sì, e ritorniamo anche al discorso della campagna anticarceraria, appunto, contro questo Casteller, questo lager. E, come dicevo prima, era una struttura originariamente pensata per curare gli orsi, ma dal 2020 ci sono stati rinchiusi in questo luogo due orsi. E, cioè, in realtà già c'era un'orsa JJ3 che era già rinchiusa in questo lager dal 2010 per aver predato alcuni capi di bestiame, e per questo condannata al carcere a vita, perché appunto questi animali che vengono catturati e imprigionati poi devono rimanere in questa situazione. Dal 2020 si sono aggiunti altri due prigionieri, M57, che praticamente andava a sgarfare nei, nei cassonetti e quindi metteva in atto insomma questo tipo di comportamenti. E specificamente M57 è stato anche accusato di aver aggredito un carabiniere nel bosco. E poi anche c'è stato M49, anche chiamato Papillon, perché appunto scappava di continuo, e la sua devianza era quella di predare molto spesso e di entrare nelle malghe attirato dall'odore del latte. Allora anche questa cosa qua è sì, una cosa che a me ha colpito, perché appunto questo orso era attirato dall'odore del latte, quindi sfondava praticamente le porte delle malghe, in quanto i malgari, magari il latte che non vendevano, comunque è andato a male, non so, lo mettevano nei secchi fuori e quindi hanno abituato, diciamo, questi animali, questo animale a berlo. Poi dopo si sono accorti che non va tanto bene insomma attirare gli animali selvatici con il cibo, quindi hanno ritirato i secchi, però nel frattempo ovviamente questo M49, questo Papillon, cioè è andato a procacciarsi un cibo che gli piaceva molto e quindi in questa maniera qua ha sfondato le porte. E appunto M49 è riuscito ad evadere dal Castellare con fughe rocambolesche, ma purtroppo nell'agosto 2020 la sorveglianza è stata portata ai massimi livelli e quindi lui adesso è lì condannato a vita anche lui a stare in questo posto. Allora, i carabinieri avevano fatto una visita in questo lager per vedere come vivevano questi tre animali e li avevano trovati malissimo, in spazi angusti, imbottiti di psicofarmaci, perché non ricorressero all'autolesionismo. Le similitudini con i CPR e con le carceri non sono per niente casuali. Appunto, come si diceva prima, l'orso non è un animale sociale, ma non ama vivere vicino ai propri simili, mentre è obbligato a fare questo, a stare insomma in cattività in questa prigione per animali selvatici. E appunto nel 2020 ci sono state delle mobilitazioni antispeciste contro questo lager e per la liberazione degli animali. La campagna si chiamava Smontiamo la gabbia, però non si è ottenuta la liberazione degli animali. JJ3 è stata trasferita in una struttura in Germania, nella Foresta Nera, dove vivono altri orsi e lupi, e forse le è andata un po' meglio rispetto a come, insomma, a come si trovava lì a Castellare, mentre M57 è stato deportato in un posto orrendo, ci diceva la compagna, in Ungheria, che è una specie di parco safari dove la gente può dare il miele agli orsi pagando, insomma, quindi una roba di abbruttimento degli animali. E poi ci sono tante altre storie. Questa compagna ci diceva che la campagna Stop Castellare ha ripreso quando l'orso Johnny è stato coinvolto in un incidente, con umani, insomma. E da allora ci sono decine e decine di forestali che lo braccano. Poi tra i condannati a morte c'è anche M62, che è fratello di M57. M sta per maschio e il numero è, perché appunto è un codice, diciamo, e fratello anche di F43, che invece è una femmina, che non ha mai avuto incontri ravvicinati con umani, ma è protagonista di episodi di rovistamento di cassonetti, quindi anche, diciamo, i reati tra virgolette di cui vengono accusati questi animali selvatici sono ridicoli, insomma. e i cassonetti potrebbero essere attrezzati in maniera diversa per evitare che questo succeda, e per evitare soprattutto che i selvatici identifichino la presenza dell'umano, la associno al cibo. Appunto, tutta questa narrazione così fa capire un po' questo discorso di mettere a profitto tutte le forme di vita, no? Cioè la speculazione, diciamo, politica che c'è per avere introiti economici, che nasce però anche da una mentalità, da una visione del proprio territorio, del proprio ambiente distorta, mercantilista, ma anche che non tiene conto della sensibilità dei diversi esseri viventi, insomma. E poi c'è questa cosa, questa similitudine, appunto, questa vicinanza nella limitazione della libera circolazione dei corpi non autorizzati, e anche in questo caso anche gli animali selvatici sono corpi non autorizzati, come appunto i migranti umani. Quindi il discorso è anche quello di, cioè, dell'incapacità, diciamo, di vedere le altre specie del mondo, di vederle e anche di trovare dei modi nella complessità per convivere. E anche sì, l'incapacità di guardare l'altro da sé senza sottometterlo, che è un'incapacità della società, cioè che è un aspetto anche della società patriarcale, diciamo, oltre che di quella capitalista, come si diceva prima. E ecco, quindi purtroppo quello che sta succedendo, insomma, anche la cattura di questa JJ4, per la quale non è stata ancora data una sentenza, no? Cioè non si sa ancora se verrà soppressa insieme ai suoi cuccioli, tra l'altro, perché lei adesso è imprigionata con i cuccioli e non si sa cosa decideranno. Ci sono delle mobilitazioni in questo momento, insomma, perché non venga uccisa da parte di varie associazioni. Si colpisce questa cosa, insomma, anche dei media mainstream, che questa, appunto, colpevolizzazione degli animali e questa esprimere, appunto, una mentalità e anche con un linguaggio molto fastidioso, questa mentalità carceraria per cui l'orsa, sì, è stato detto, insomma, addirittura da Sgarbi, l'orsa JJ4 non deve essere, no, uccisa no, però messa in prigione sì, perché ha sbagliato. E niente, questo, insomma, è una cosa, sì, cioè sono fatti, insomma, che sono successi in questi giorni e che secondo me sono significativi del mondo in cui viviamo e anche della continua guerra e repressione ai viventi che in questo periodo, insomma, si sta materializzando in maniera sempre più forte. We'll be right back. E intanto stiamo ascoltando in sottofondo, ma cioè ascoltavamo prima in sottofondo ma anche adesso, questa band statunitense, loro sono gli Urs Distress, e questo è il loro album datato 1988, Isn't Life Grind. Bene, allora questi erano gli statunitensi, band statunitense US Distress, questo è il loro album datato 1988, Isn't Life Grand. Ora invece passiamo ad una band italiana della zona di Roma, loro erano Desperate Living, questo è l'unica loro uscita discografica, che è del 2007, che si chiama questo CD, un mini CD Immaterial. Allora ci ascoltiamo un paio di brani per questi Desperate Living. Bene, abbiamo già in linea, credo, un nostro compagno da Trieste che ci deve dare degli aggiornamenti importanti sulla situazione di Alessio Attanasio. Ci siamo? Sì, ciao, buona serata a tutti, a tutte le ascoltatrici. Ok, sì, vai pure. Allora, sì, noi come Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione e Associazione Senza Sbarre siamo in contatto con Alessio Attanasio ormai da tempo, e lui ci ha spedito una lettera datata 17 del 3 del 2003 in cui ci avvisa, insomma, dell'applicazione nei suoi confronti del 14 bis ordinamento penitenziario, cioè la sorveglianza particolare. E questo provvedimento, intanto bisognerebbe capire un po' cosa significa, perché in rete ultimamente altre fonti dicono che Attanasio è stato di nuovo colpito da 41 bis. Ricordiamo che Attanasio è un detenuto che in 41 bis ci ha passato 20 anni e ha avuto una breve scarcerazione nel 2022, poi è ritornato dentro, attualmente è dentro per un cautelare, per un provvedimento cautelare, è nel carcere di Oristano e in realtà, insomma, quello che ha deciso il DAP è l'applicazione nel suo caso del 14 bis e non del 41 bis. Uh-huh. La differenza sostanziale è che il 14 bis è un regime, sì, cosiddetto di sorveglianza particolare, che ha che prevede delle limitazioni di vario tipo, varie e anche variabili, ai detenuti cosiddetti indisciplinati, ecco, nella vita interna del carcere, vuol dire dei detenuti resistenti, ribelli, quale è Alessio, insomma. Si differenzia dal 41 bis perché il 14 bis è più relativo strettamente alla vita interna del carcere, mentre il 41 bis ha una giustificazione, un'applicazione che riguarda soprattutto il contatto con l'esterno. E inoltre il 14 bis sostanzialmente indipendente dal tipo di reato che ti porta in carcere, mentre il 41 bis è legato allo status della condanna del detenuto, sostanzialmente, ma o mafioso o terrorista, ecco, queste le classificazioni giuridiche da codice secondo i vari reati, insomma, che hanno che rientrano in queste tipologie, si rischia di finire in 41 bis, ecco. Quindi c'è una differenza, insomma, tutte e due tendono verso l'isolamento e la differenziazione del detenuto, ma c'è una differenza sostanziale. Mm-hmm. E lui è stato colpito da questo provvedimento lo colpisce nel concreto nella partecipazione al sorteggio mensile per la designazione dei detenuti e degli internati incaricati del controllo circa l'applicazione delle tabelle e la propagazione del vitto, la gestione del servizio di biblioteca, l'organizzazione delle attività culturali, sportive, ricreative e le altre attività interne, insomma. E nessun corso scolastico di addestramento professionale alle attività sportive e neanche alla socialità all'interno della sezione. È possibile, gli consentono una permanenza all'aperto per un periodo di tempo giornaliero di 2 ore, quindi piuttosto pesante. E quindi questa è una condizione da 41 bis praticamente. Alessio ha reagito ha fatto un reclamo e ha ottenuto di ritornare a poter fare la socialità con i suoi compagni di detenzione nel reparto di alta sorveglianza 1 nel carcere di Oristano. Quindi questa è già una piccola vittoria di un detenuto che comunque a livello di azioni legali è molto ferrato, insomma ha dato sempre del filo da torcere alle varie istituzioni carcerarie anche con il suo attivismo giuridico, giudiziario, adesso si muove anche su questo terreno delle reclami, ricorsi e i motivi sono insomma interessanti indicano la solita infamia delle autorità carcerarie e in sostanza le accusano di non osservanza agli ordini cioè nel senso di non essere sottomesso agli ordini delle guardie all'interno. C'è l'episodio del 2 gennaio 2003 che è già andato in onda su queste frequenze, sì, già abbiamo 23. Del 2023, sì. Già ne abbiamo parlato quando insomma Attanasio è stato in sostanza aggredito da alcuni secondini. Lui ha fatto anche una denuncia per falso e calunnia, perché invece i secondini naturalmente sostengono che l'aggressore sia stato lui. E poi gli attribuiscono all'8 febbraio 2003 un'altra aggressione a un ispettore della penitenziaria. E questi sono i motivi per cui gli è stato comminato questo 14 bis. E lui dice insomma di stare benissimo, questo noi ne siamo molto contenti, cioè veramente ammirabile questa persona che nonostante insomma le combinino di tutto, insomma il morale sembra sempre alto, quindi è una forza enorme questo Alessio, noi diamo tutta la nostra solidarietà e stima. Importante che i motivi sono sempre conditi dai suoi buoni rapporti, dall'appoggio che ottiene dagli altri detenuti, perché insomma sappiamo che una delle finalità di questi regimi è proprio la desolidarizzazione tra detenuti all'interno, cioè spargere terrore, dividere, mostrare il cattivo anche all'interno fra i cattivi nelle carceri, serve ovviamente a stabilizzare il sistema e l'ordine interno che lo Stato vuole imporre nelle carceri. Ricordiamo, adesso non sappiamo se questo sciopero va avanti perché di questo non ci dà notizia, ma insomma che in tutto questo Alessio ha trovato anche la forza di condurre uno sciopero del vitto in solidarietà a Cospito dal 5 marzo, e anche questo è significativo della sua volontà di solidarizzare con altri detenuti in lotta. C'è una buona notizia, ogni tanto arriva qualche buona notizia dal triste tribunale di Udine che conosciamo bene purtroppo, anche perché siamo sotto processo proprio per cose dette in questa trasmissione, ma Attanasio è stato assolto il 24 marzo dall'infame accusa di interruzione di pubblico servizio, perché presentava delle querele, faceva delle azioni legali contro l'amministrazione penitenziaria del carcere di Tolmezzo in cui era rinchiuso. Cioè nel senso, un detenuto si batte anche a livello legale per quelli che dovrebbero essere diritti riconosciuti e viene denunciato e portato a giudizio dalla procura di Udine per interruzione del pubblico servizio. Non ci stupiamo quindi che questa procura continua a perseguitare anche a noi e anche per un processo, la prossima udienza il 29 maggio, già si diceva più volte in questa trasmissione, un processo che riguarda anche Alessio, perché noi abbiamo dato voce a quanto lui ci raccontava sulla noncuranza e sulla sfacciataggine nella gestione del Covid da parte della direzione penitenziaria del carcere di Tolmezzo nel pieno dell'epidemia, insomma, e infatti quel carcere è diventato un cluster, un focolaio insomma grave, con anche un detenuto morto, ecco, lo vogliamo ricordare qui. Concludo con un piccolo appello di scrivere, a scrivere ad Alessio, do il suo nome e cognome preciso, Alessio Attanasio, località su Pedraxio, Massama, SNC, la sigla perché non c'è un civico senza numero civico, SNC 09170 Oristano, località su Pedraxio, Massama, SNC 09170 Oristano. Ecco, scriviamoli delle cartoline di solidarietà, le cose anche brevi, o mandiamoli delle pubblicazioni, quello che vogliamo, insomma, salutiamolo perché sta conducendo, insomma, una lotta importante, il suo umore è alto, insomma, è un detenuto ammirabile, resistente, che insomma dobbiamo sostenere. Ecco, comunque il suo indirizzo si ritrova nei siti che si occupano di solidarietà ai detenuti. Vi ringrazio sempre dello spazio, insomma, questo è quello che, questi sono gli aggiornamenti che ci tenevo a darvi. Benissimo, senz'altro. Allora alla prossima. Sì. Ciao e ciao. Grazie, ciao. Saluto a tutti e a tutte. Sì, sì, e forza Alessio. Stiamo ascoltando questa band brasiliana, loro sono i Renegades of Punk, questo è il loro album datato 2012 che si chiama Coração Metronomo, Renegades of Punk. Bene, mentre teniamo in sottofondo questa band brasiliana, i Renegades of Punk, ricordo che purtroppo siamo giunti al termine di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che inizia alle ore 20 di ogni giovedì in diretta radiofonica da studi di Radio Onde Furlane, appunto termina alle ore 21:30. Ricordo che nella trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste, ma prima di lasciarci completamente vi ricordo i nostri contatti, che sono chi volesse scriverci tramite posta elettronica liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121, ripeto anche questo, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre siamo anche presenti su Telegram e su t.me/Zardins, appunto su Telegram. Chi volesse riascoltare questa trasmissione, ma anche tutte quelle delle volte precedenti, basta che va su internet, cerca Zardins Magnetics radio.noblogs.org, ripeto Zardins Magnetics radio.noblogs.org. Bene, inoltre salutiamo e comunque chi volesse anche riascoltarci domani dalle ore 17 siamo in replica su Radiazione, che è una web radio. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, sempre in diretta radiofonica da Radio Onde Furlane alle ore 20, e vi lascio con questi Renegades of Punk. Ciao a tutti.